Radio 24 Reportage. Expo, Croce e Delizia Milanese, di Laura Bettini. Ce la facciamo senz'altro, dice l'ingegner Johnny Pellicciotta. Siamo nella parte più complessa, quella dove dobbiamo assolutamente ultimare i lavori e partire con gli allestimenti. Pellicciotta è il construction manager della divisione construction di Expo. Al di là degli anglicismi, è l'uomo che ha il polso della situazione nel cantiere che stiamo visitando. Adesso ci aspettano un paio di sfide importanti, stiamo ultimando l'energizzazione del sito, quindi stiamo fornendo in pratica la luce. Stiamo anche a breve, nella seconda metà di febbraio, facendo l'immissione dell'acqua nei canali. Quindi c'è tutto il canale perimetrale, che è un bellissimo gioco di acqua del sito, che verrà iniziato nella seconda metà di febbraio e andrà a regime nella seconda metà di marzo. Come operai, come maestranza, abbiamo superato i 3.000 operai. Stiamo lavorando su molte attività, anche su più turni. I lavori dobbiamo finire nel mese di marzo, a fine marzo, per passare alla fase degli allestimenti, che peraltro in alcune manufatte è già iniziata, no? Per esempio i cluster abbiamo già iniziato ad allestire all'interno, così come le aree di servizio. Da aprile in poi, quindi, Decumano e Cardo, come sono stati romanamente battezzati gli assi viari di Expo, brulicheranno di operai impegnati nell'allestimento dei padiglioni e nell'abbellimento degli spazi comuni, ma sarà labor lime, lavoro di rifinitura, non più di ruspe e gru. Gli svizzeri poi avranno anche il tempo di coltivare le rose se vorranno. Il loro padiglione è già completo. Dal tetto fa anche capolino l'alberello che per tradizione nordica si mette sulle case per celebrare la copertura del tetto. È un edificio che rappresenta bene lo spirito dell'Expo. Le quattro torri di vetro saranno riempite di acqua, caffè, mele essiccate e sale da offrire ai visitatori. Se i primi saranno onesti, gli ultimi potranno ancora goderne, altrimenti no, come su questo pianeta accadrà ai nostri nipoti, se continueremo ad essere troppo avidi. In molti hanno citato questa massima merinda del mondo preso a prestito dai nostri nipoti all'Expo delle Idee del 7 febbraio, il gran raduno di esperti voluto dal Ministero dell'Agricoltura per dare anima al tema dell'Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. Nelle intenzioni del ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, il più grande lascito dell'Esposizione Universale a Milano dovrà essere la Carta di Milano, appunto, un patto internazionale per un sistema alimentare più sano e sostenibile. Ci sarà una prima versione della carta proprio quando Expo aprirà i suoi cancelli e poi noi la carta la faremo vivere nel confronto, nel dialogo con tutti i visitatori dell'Expo, fino a consegnarla il 16 di ottobre al segretario generale dell'ONU, quando il segretario generale dell'ONU parteciperà ad Expo. Quindi è veramente un lavoro di mesi che si arricchisce del confronto e del rapporto con tutti i visitatori. L'idea di un protocollo di Milano da sottoscrivere all'Expo fu lanciata anni fa dalla Fondazione Barilla, che lavorò a lungo su questo progetto. Ora però non ce ne sentiamo scippati, dice Paolo Barilla. Se siamo qui oggi è anche merito vostro. È merito nostro perché 6 anni fa abbiamo iniziato questo percorso. È merito dell'autorevolezza delle persone che ci hanno lavorato, perché in realtà un documento è autorevole quando è riconosciuto da una comunità esterna che dice che quelle lì sono delle buone informazioni. È merito dell'istituzione, di qualche istituzione che ci ha creduto, per cui noi siamo felici di offrirlo, perché una cosa che vale deve valere per tutti. È stato scongiurato, secondo il viceministro agli esteri Lapo Pistelli, il pericolo che l'Expo sia solo una passerella per le aziende del Made in Italy. Cioè qui non ci sono soltanto le istituzioni, qua si va da Carlin Petrini a Carlo Cracco, si va dalle ONG internazionali agli specialisti dell'alimentazione, si va dai territori alle università. E non solo le imprese, come si era temuto all'inizio. Esattamente, cioè la curvatura è stata abbastanza cambiata. Ma proprio Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, dal palco dell'Expo delle Idee non è stato affatto tenero nei confronti dell'organizzazione. Dove sono i contadini, si chiedeva. E ancora, non fermatevi al conteggio dei turisti in arrivo o alla Carta di Milano. Il libero mercato applicato al cibo sta generando uno sconquasso di proporzioni bibliche. Ma di che cosa parliamo? Questo feticcio del libero mercato sta generando sofferenze in ogni angolo del pianeta. E vorrei che una volta tanto noi italiani prendessimo atto che lo sconquasso avviene in ogni angolo del mondo, ma avviene anche a casa nostra, perché ieri migliaia di contadini, di allevatori sono scesi in piazza perché in questo paese si paga il latte 20 centesimi al litro. Ma di che cosa parliamo se paghiamo questi prezzi ai contadini? Il bersaglio è lo stesso colpito dal pontefice nel messaggio che ha inviato proprio agli esperti convocati dal governo all'Expo delle Idee. Se vogliamo realmente risolvere i problemi e non perderci nei sofismi, risolvere la radice di tutti i mali che è l'inequità. Per fare questo ci sono alcune scelte prioritarie da compiere. Rinunciare all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e agire anzitutto sulle cause strutturali della inequità. In cantiere, ovviamente, di questa discussione non c'è traccia. Il pensiero è fisso al 1° maggio, a quando i brasiliani inaugureranno il bungee jumping dal tetto, i malesi apriranno il loro padiglione a forma di semi tropicali e si inaugureranno i cluster, i padiglioni collettivi dei produttori di riso, di cacao, di spezie e via dicendo. Il tutto dominato all'incrocio tra Card e Decumano dal padiglione Italia, il più alto di tutti. Percorso il Decumano da cima a fondo, imbocchiamo la strada perimetrale che durante Expo sarà riservata a fornitori e lavoratori dei padiglioni. La passerella verso la metropolitana è completa, pronto il collegamento con la ferrovia, pronta la passerella merlata che scavalcando ferrovia e autostrada congiunge il sito ai palazzoni in cui risiederà il personale di servizio della manifestazione. Si calcola che saranno 6-7 milioni i turisti stranieri che approfitteranno dell'Expo per compiere un grand tour in Italia, come si faceva nell'Ottocento. Di contro, Paolo Rossi, presidente di Federalberghi Lombardia, è convinto che almeno gli albergatori non approfitteranno dei portafogli dei turisti. Le risulta che ci siano stati degli aumenti un po' esagerati? No. Allora, innanzitutto noi dobbiamo pensare ai prezzi degli alberghi come pensiamo ai prezzi delle linee aeree. È chiaro che andare a New York in agosto costa 10, andarci in dicembre costa 30, 40, 50. Sarà il mercato che detterà i prezzi, anche perché se sei fuori prezzo poi la gente non viene. A quanto pare tanti hanno cominciato a pensare di mettere in affitto le proprie case in quel periodo. Purtroppo è un fenomeno che esiste già, ad esempio, per il salone del mobile. Poi tenga presente che con tutto l'invenduto che c'è, molti immobiliaristi saranno interessati a questo tipo di cosa. Però qui parliamo proprio di concorrenza sleale e nessun controllo. Girando intorno al sito dell'Expo, impressiona la vastità dei posteggi dell'area est e il pantano del nord-est. Colpa della pioggia, vero? Ma anche dell'assenza del tanto discusso albero della vita. Tra un'inchiesta e un ritardo, infatti, la torre di 35 metri, piena di effetti pirotecnici che dovrebbe essere il simbolo dell'Italia all'Expo, ancora non c'è. La costruzione della struttura è stata presa in carico da Orgoglio Brescia, un consorzio di aziende locali che sborseranno oltre 3 milioni di euro per realizzarla. Giancarlo Turati è il coordinatore. I lavori per la parte strutturale procedono secondo la tabella di marcia, quindi intorno alla fine di febbraio si vedrà effettivamente l'albero anche passando in autostrada vicino a Expo. Ora l'albero è composto da una struttura interna completamente in acciaio, precisamente in lamiera d'acciaio con uno spessore intorno ai 4 cm, ha peso di 250 tonnellate, e una struttura esterna agganciata a quella interna in legno lamellare piegato e ritorto, legno di Larice, che in questo momento è in lavorazione in un cantiere specializzato a Davos in Svizzera per conto dell'azienda bresciana che lo costruirà. L'allestimento tecnologico invece toccherà a un altro raggruppamento di imprese di nome Agorà, che ora è al vaglio dell'autorità nazionale anticorruzione, come tutto ciò che riguarda Expo ormai. Il bilancio recentemente diffuso dall'ANAC è da brividi. L'80% delle procedure di appalto dell'Expo di Milano, superiori a 40.000 euro, ha subito dei rilievi, dice. ma sono appalti del passato. Ora la collaborazione va a gonfie vele, secondo il presidente dell'autorità Cantone. Su tantissime vicende abbiamo trovato soluzioni, ci siamo sentiti con Sala a volte in periodi anche quotidianamente. Io credo che sia stata una grande esperienza e la più grande soddisfazione che abbiamo avuto come autorità nazionale anticorruzione è quando l'OCSE, controllando i nostri controlli, ha detto che questo è un sistema che si potrà persino importare all'estero. Ed è anche grazie a questa collaborazione fattiva ed efficace con l'ANAC che il commissario unico per l'Expo, Giuseppe Sala, è ora convinto che davvero ce la si possa fare per il 1° maggio. Sono preoccupato sempre e voglio essere preoccupato perché voglio essere molto attento a quello che succede. Credo che fino all'ultimo giorno sarà una corsa, però io sono veramente molto confidente che il 1° maggio 2015 si aprirà e si aprirà bene. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.